muove sopra un tempo. La disciplina si raffina con l'intento, ci si muove sopra un tempo. La disciplina si raffina con l'intento, ci si muove sopra un tempo. Ci si muove sopra un tempo, prevede allenamento. La disciplina si raffina con l'intento. Sai perché? Io mi muovo sopra un tempo. Perché andando a piedi stavo andando troppo lento. E visto che il mio appento lo metto sempre in questo. Hai visto che il mio tempo non è mai tempo perso. Un verso dopo un verso, un paragrafo diverso. Un personale stato immerso dentro al quale mi son perso. Spesse volte avverso questo mondo così terso di dolore e d'odio. Non posso star depresso, scrivo un verso eccelso sopra un foglio. Come voglio, un quadro astratto fatto con colori ad olio. Ogni argomento spoglio, lo voglio senza vesti. Rincoglionendo nell'orgoglio anche i più modesti. Ho visto che tu presti attenzione a questi testi. Se non sentissi noi ti parleremmo a gesti. Su ritmi arresti, rustici e funesti incastri. La nostra beat street, i nostri testi mastri. Ci si muove sopra un tempo. Ci si muove sopra un tempo. Prevede allenamento. La disciplina raffina con l'intento. Ci si muove sopra un tempo. Ci si muove sopra un tempo. Prevede allenamento. La disciplina raffina con l'intento. Sai ci vuole allenamento. Mai lasciare il tuo cervello spento. Mai lasciarti infinocchiare dalle mode del momento. Mai seguire il vento. Mai pensare di essere il portento. Unico al mondo intendo. Mai sbagliare il tempo. Mai sparare a zero per far cento. Mai farci un beat con un sample preso dalla top ten. Mai fidarsi di chi si propone come un totem. Mai guardare rotten.com. Mai fare a botte. Sempre bere e ballare il sabato notte. Sempre rompere le balle a chi te le ha rotte. Sempre fottersene dei sotterfugi. E sempre fottere i pertugi con l'idea del mordi e fuggi. Sempre frequentare i bugigattoli, sempre dialogare con rispetto mi. Io mi abbatto qui con l'effetto di sempre essere in vena, sempre mettersi di buona lena, sempre darsi pena, sempre essere in piena così. Ci si muove sopra un tempo. Ci si muove sopra un tempo. Prevede allenamento. La disciplina raffina con l'intento. Ci si muove sopra un tempo. Ci si muove sopra un tempo. Prevede allenamento. La disciplina raffina con l'intento. Sai cos'è questa? Sì, la disciplina del rap in rima, del giradischi e della puntina. La cultura del basso col beat in cima. Il suono grasso, il chiasso stradale che si insinua. Un loop musicale che continua e continua. Continua e continua, un ripetersi che è metafora di vita giornaliera. Io sono il giornalista di quest'era. Per gente nera, bianca, gialla. Per chi sta in fondo e per chi ancora sta a galla. Sta musica si balla e sul testo si pensa. L'hip hop è musica dura, musica densa. Ludica intensa è già la tua ricompensa. Unica intensa è la mia umile mensa. Danza, pensa. La disciplina si raffina con l'intento. Ci si muove sopra un tempo. Ci si muove sopra un tempo. Prevede allenamento. La disciplina si raffina con l'intento. Thank you.